storie. Qui ci si fa una figuruccia, ma questa, questa la succede anche a voi. E allora forza dai, impariamo il ritornello. Ai ai ai ai ai ai ai, ho provato cerchioni. Ai ai ai ai ai, ho rimbalzato come. Non so se ti è mai capitato di rimbalzare spesso come fai cerchioni. L'altra sera proprio sai, l'altra sera sono uscito con una e bella signorina che di nome si sa, fa Valentina. E lei mi ha fatto male, mi ha fatto rimbalzare. Ed io che volevo sai fare l'amore, è andata male, eh? Ai ai ai ai ai ai ai, ho provato cerchioni. Ai ai ai ai ai, ho rimbalzato come. E che tu redi te così davanti, chissà quante volte t'hai rimbalzato avanti. Forza dillo ai cerchioni, un dì vergognare e tanto rimbalzare. L'è normale e tanto rimbalzare, l'è normale. Guarda i cerchioni, tre volte in una sera, una figuruccia. Una figuruccia le è andata via con la coda fra le gambe. E quindi tutti insieme, ai ai ai ai ai ai ai, ho provato cerchioni. Ai ai ai ai ai, ho rimbalzato come. E se si guarda poi il rovescio della medaglia, e tanto quella donna se si sa non si sbaglia. La come sai l'uomo dalle belle ciglia, tutte le vogliono, nessuno lo piglia, nessuno lo piglia, nessuno lo piglia. E qui mi devo ricredere alla grande, eh? E quindi allora dai forza, tutti insieme. Spesso come fai cerchioni, l'altra sera proprio sai, l'altra sera sono uscito con una e bella signorina che di nome si sa, fa Valentina. E lei mi ha fatto male, mi ha fatto rimbalzare. Ed io che volevo sai fare l'amore, è andata male, eh? Ai ai ai ai ai ai ai, ho provato cerchioni. Ai ai ai ai ai, ho rimbalzato come. E che tu redi te così davanti, chissà quante volte t'hai rimbalzato avanti. Forza dillo ai cerchioni, un dì vergognare e tanto rimbalzare. L'è normale e tanto rimbalzare, l'è normale. Guarda i cerchioni, tre volte in una sera, una figuruccia. Una figuruccia le è andata via con la coda fra le gambe. E quindi tutti insieme. Ai ai ai ai ai ai ai, ho provato cerchioni. Ai ai ai ai ai, ho rimbalzato come.